Europa 24. Un saluto da Gigi Donnelli e benvenuti all'appuntamento con l'Europa. Inizio ricordandovi il nostro speciale, ormai si è avviato da 3 settimane, la nostra EU Zone, che sta per EU, dunque Unione Europea, ma anche la zona per dialogare tra gli ascoltatori, evidentemente in questo caso gli europarlamentari. Noi stiamo esplorando il mondo dell'Europarlamento in chiave italiana, dunque EU Zone ogni lunedì, ogni giovedì la sera, e lo ritrovate tutto sul web Radio 24, sole24ore.com. E adesso partiamo parlando invece di automobili, lo scandalo Volkswagen, insomma l'urgente chiarezza sui nuovi test per le emissioni auto in condizione di guida reali che ancora ieri i produttori sono tornati a chiedere. Un voto delicato proprio in questi momenti. Ci colleghiamo allora con Maurizio Caprino del Sole 24 Ore che ci aggiorna. Allora, il procedimento andrà avanti come era stato proposto al comitato tecnico, quindi ci sarà un periodo di transizione in cui le emissioni di ossidi d'azoto, che sono al centro dello scandalo Volkswagen, potranno essere sensibilmente superiori rispetto a quelle misurate ottimisticamente in laboratorio, quindi su strada le auto potranno continuare ad avere emissioni molto superiori, si parla di poco più del doppio, cioè il 110% in più rispetto alla soglia. Tutto questo perché il Parlamento dell'Unione Europea, che inizialmente aveva un po' storto il naso riguardo a questa tolleranza, oggi, proprio pochi momenti fa, si è contato e con soltanto 6 voti, quindi uno scarto assolutamente minimo, con soltanto 6 voti di differenza, ha deciso che la proposta della Commissione Europea è una proposta che si poteva approvare, e quindi... Ecco, Maurizio, 6 voti di differenza per una proposta, insomma perdono quelli che dicono che l'Europa a questo punto è troppo buona con le case automobilistiche, per farla semplice. Sì, sì, esattamente. Tolleranza. Sì, troppa tolleranza, dicono loro. In realtà la questione tecnicamente è molto più complessa, anche perché stiamo parlando soltanto di auto nuove, quindi una briciola nell'ambito di un parco circolante che è quello che oggi causa l'inquinamento. D'altra parte, ecco, c'è da dire che c'era stata una grossissima mobilitazione del mondo ecologista, e non solo, c'è stata una spaccatura anche all'interno dei democratici, quindi il tema era molto sentito, però poi alla fine, diciamo, le trattative sono andate avanti fino a stanotte, sono state effettuate delle limature al testo, per cui praticamente la Commissione ha promesso al Parlamento di tenerlo molto informato molto da vicino. Questo dà l'idea anche di quanto sia sentito l'argomento, quindi il Parlamento, di fronte a questa promessa di maggior ruolo, ha deciso di andare avanti come fondamentalmente proponeva la Commissione. D'altra parte la Commissione, c'è da dire che aveva già fatto un compromesso, perché i tecnici rappresentanti degli Stati membri, quindi dei governi nazionali e quindi indirettamente anche degli interessi delle industrie nazionali, erano partiti con proposte più blande, quindi diciamo è una situazione di compromesso che deve comunque tener conto che l'industria non è pronta, e quindi poi alla fine, se si fosse andati avanti sulla linea dei Verdi o comunque degli ecologisti in generale, la conseguenza... si sarebbe trovato in fuori gioco l'industria europea dell'automobile. Sì, soprattutto i piccoli diesel, che vanno molto anche da noi in Italia. Insomma. Grazie davvero. Dunque, Maurizio Caprino, è chiaro che questo è un tema importante, mettere in fuori gioco e quindi a catena avere un impatto sulla produzione automobilistica europea, sui posti di lavoro, eccetera, eccetera. Il Parlamento è il luogo della mediazione, anche se è un termine, come dire, che nei nostri tempi viene sempre guardato con sospetto. Avete sentito, 6 voti solo di differenza per dare dunque il tempo che l'industria ha chiesto per adeguarsi. Cambiamo tema per adeguarsi invece a una decisione che va dritta verso il referendum, insomma stare o non stare insieme, questo è il dilemma, scrive il presidente del Consiglio UE Donald Tusk in un amletico Twitter riferito a Londra. Un welfare ridotto e un cartellino rosso sulle leggi comunitarie sono due dei punti concordati tra Londra e Bruxelles per tentare di scongiurare la prospettiva Brexit, cioè l'uscita del Regno Unito dall'Unione. Una bozza d'intesa sulla quale 28 paesi voteranno nel vertice di febbraio e che viene ufficializzata dal presidente del Consiglio europeo Donald Tusk con un amletico tweet. Stare o non stare insieme, questo è il dilemma. C'è dunque una sorta di veto che verrebbe concesso ai parlamenti europei per bloccare norme comunitarie non gradite. Basterebbe il 55% dei parlamenti nazionali per imporre lo stop. Altro capitolo, la concessione a Londra o ad altro paese che ne facesse richiesta della possibilità di applicare un welfare ridotto ai cittadini comunitari in caso di afflussi eccezionali. E ancora, la possibilità del Regno Unito di restare fuori dai piani di maggiore integrazione europea, mentre Bruxelles dice no alla proposta di Cameron di concedere un diritto di veto sulle decisioni dell'Eurozona anche ai paesi che non vi appartengono. Un'intesa che, secondo il Premier David Cameron, porta a un cambio sostanziale nelle relazioni tra Londra e Bruxelles, anche se, dice, c'è ancora da lavorare. Bocciatura invece da parte degli euroscettici. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore. Ed ora a tutti convocati, naturalmente noi ci risentiamo domani alla stessa ora. Un saluto. Europa 24. In collaborazione con Euronet Plus.